Allora, al momento, insomma, diciamo che la situazione è tragica, anche perché, insomma, nella notte una frana, che insomma un pezzo di roccia che si è staccato dal contrafforte piacenico, ha colpito una casa che era lì sotto e quindi, insomma, per fortuna senza gravi conseguenze. E ci sono state, insomma, c'erano tre persone all'interno della casa, però, insomma, per fortuna tutti illesi. E poi abbiamo il problema delle frane, oltre all'esondazione dei nostri due torrenti, sia il Savena verso appunto Rastignano, il Paleotto vicino al ponte di Sarufillo, e il torrente Zena, che invece ha rotto gli argini in più punti, allagando l'intera frazione di Botteghino. Quindi, insomma, oltre a le frane che non si riescono più a contare dal gran che ce ne sono. Ecco, immagino che ci siano, al di là delle persone tratte in salvo da questa casa, anche altri sfollati? Assolutamente sì, devo dire che la cittadinanza, insomma, tra l'altro è anche molto collaborativa, ha capito il problema e molti di loro, insomma, si sono fatti ospitare da parenti, amici, conoscenti e quindi, insomma, non presso le nostre strutture. E noi abbiamo accolto un anziano in albergo, una persona di 93 anni perché non ha senza parenti, quindi l'abbiamo messo in un nostro albergo, poi abbiamo allestito un punto accoglienza presso la Sala Arcipelago per insomma, accogliere quelle persone che invece, insomma, non avevano parenti o amici dove andare. Certo, ecco. Comunque sì, ne abbiamo parecchi di persone, insomma, sfollate. Ecco, e nelle prossime ore la situazione meteorologica, come dire, dà spiragli? Insomma, sembra di sì, io sto aspettando con ansia che smetta di piovere. Ci hanno detto che comunque verso l'una alle due del pomeriggio dovrebbe smettere, quindi speriamo. Al momento devo dire che almeno la piena del torrente Zena è in calo, insomma il livello dell'acqua è diminuito, quindi questo almeno, insomma, ci fa andare anche a soccorrere le persone della frazione di Botteghino, ma molto più agevolmente, perché ieri siamo intervenuti invece con i gommoni dei vigili del fuoco, quindi, insomma, questo ci dà una mano.